Comunque Gianni, poco fa avete parlato in due, c'è una persona che vuole entrare, forse avanti. Ho sentito un'altra persona, avete ripreso contemporaneamente. Vabbè, se vuole entrare già siamo qua. Ognuno, ogni paese del mondo adotta un metodo suo, ma caspita, quello dove era Cile, cos'è? No, Centro America, boh. Cioè, vedere questo sacco vivo che si muove della spazzatura buttato nella fornace, vabbè che li fanno così anche con le persone, mi. Tutti questi paesi ex colonie degli spagnoli, no? La spagnola lì, gli spagnoli si erano insediati in Centro America, un po' leggermente Sud America, no? Sono tutti paesi dove c'è una violenza bestiale, dove ci sono stati regimi bestiali e dove c'è molta povertà anche. Io non ho visto il coso che hanno fatto, il servizio che hanno fatto, addirittura cagnolini, capito, piccolini, ammazzati e buttati nel cassetto alla mondezza, ma non sono neanche cose da fare vedere quelle, ma stai scherzando? Sì, poi non si smaldisce così a parte la carcassa di un animale nel cassonetto, cosa l'ho messo? Nell'umido l'ha messo. Il cassonetto alla mondezza si è rampato. E pensare che solo 20 anni fa, quando era, vi ricordate nel 90 gli sbarchi degli albanesi, quando è caduto il regime, che erano alla fame, arrivavano non i barconi come adesso, i canotti con i neri, arrivavano le navi, tipo traghetto Tirrenia, stracarico di gente, stracarico mi, che rischiava di affondare, con quei poveracci che erano ridotti alla fame. Ui. E insomma non sono diventati una... Non è che abbiano tanto progredito, cioè l'Albania è uno stato del cacchio, no? Avevano fatto un film anche, l'America, tutto attaccato, l'America, con quell'attore di cui non ricordo il nome, proprio riferito agli sbarchi degli albanesi. Insomma, quando ci sono casini nel Mediterraneo sbarcano sempre in Italia, capito? Perché l'Italia è il porto, è proprio si protende nel Mediterraneo, quindi casini nel Mediterraneo sbarcano sempre bene o male da noi. L'Italia è la discarica, stavamo detto di veleno. Sì, è una specie di cloaca, l'Italia che si protende nel Mediterraneo, capito? È un porto, Quindi già fenici, assiri, babilonesi, africani, egiziani, tutti a trombarsi le donne sarde, già dall'antichità. Noi siamo una cozzaglia di fenici, di greci, di egiziani. Yeah. Vabbè. Purtroppo i cani, se uno ce li ha, deve trattare bene, grazie. Io ci spendo molti soldi, io non faccio questo, non conteggio, perché io li do carne mattina e sera, immagina cosa spendo di carne, cosa spendo di mangimi, cosa spendo. Io oltre mangimi che ho preso quel sacco che mi ha detto, ho preso quello, ma ne ho preso anche quello, ho preso dal trailer, dal pesce, e glielo mischio. Già, proprio cose le dai tu, io ne do una e mangio a quella. Troppe cose le dai tu, il cane mischiato, è quello mischiato, è quell'altro mischiato. Io non so quanto pesi il tuo cane, ma il mio, anche se mangia una cosa sola, è abbastanza grasso, va bene così, è molto in forma, però lucido, tutto in ordine, eccetera. Non è che puoi darle mille cose. Il cane va abituato a mangiare una cosa, una settimana, magari secco, un'altra settimana diversamente, ma tutta quella cosa mischiata che gli dai io non sono assolutamente d'accordo. Già, poi ognuno, ti ripeto, si comporta col suo cane come vuole, io così mi hanno detto di fare, così faccio. Se mio dovesse mangiare tutto quello che gli mischi tu, addirittura è già crepato, forse perché lo devo tenere un po' diverso dal tuo, però il prossimo assimila moltissimo, diventa un rinoceronte. morte se le metto due pasti insieme, hai capito? Io ho una linea perfetta, muscolatura bella, bella sviluppata e non c'ha un filo di grasso, niente. E la dieta che gli do io è studiata, e non è che lo stia facendo così a capo mio, è studiata, è una dieta studiata, quindi non è che li metti quei 200 grammi di crocchette, gliene metti un pochino in mezzo e basta, però gliene metti. Cosa gli do di altro mischiato? Gli metto la pasta, le zucchine e le carote che mi fanno bene, la carne e un po' di formaggio, cosa gli metto di altro? Claudio. Già formaggio non devi mettere, perché per i morosi il formaggio è il veleno. Quindi diciamo che pasti completi, cosa c'entra? Già. Ma sono due cani completamente diversi, no? Non ha niente a che fare il tuo con la mia, col mio, già. Sono due cani completamente diversi. Capito? Non hanno niente a che fare. Filippo ingrassa moltissimo, si mangia tutte quelle cose. Quindi deve avere una linea per mangiare e seguire quella, una linea proprio dal veterinario, no? Non è inventata da me. Io le ho finite le crocchette e sono dovuto andare a prendere la casa degli animali, un sacchettino da 2 kg, perché non me lo portano, me lo porta sabato, e quindi ho dovuto prendere delle crocchettine leggere, molto leggere, al pollo per far sì che non le crei problemi, capito? Non si può permettere di mangiare molto figo, perché è un cane che purtroppo assimila tutto in fretta, ingrassa e poi sta male, capito? Già, cioè ti ho mandato le fotografie, cosa? Fai mettere la stanza del tuo cane con la stanza di Filippo, senza nessun pregiudizio, per carità, ma ne vado due volte Filippo, già, lascia perdere, è un altro tipo di cane, dimmi Marco. No, ho visto quello che mangia Tyson, caspita, mangia come me, anche meglio di me. C'è roba fresca anche, non è roba che... formaggio sì, può essere proprio una cosa infinitesimale. Adesso avrei voluto anch'io la stessa ciotola che aveva il cane, l'avrei voluta io, guarda. Carne bella fresca, fatta al momento, verdure fatte al momento. Caspita, tranne vabbè, quelli tondi tipo fagioli, quelli no, quelli sono per lui. E forse sì, tu tende a ingrassare, Claudio. Se mangia di più tende a ingrassare. Quello di Gianni forse rimane più snello, non lo so. Forse costituzione, il tipo della razza, il DNA proprio del cane è diverso. Ma il DNA del cane, sono due cani completamente diversi, no? Sono diversi. Un po' inglese è un cane che arriva anche a 50 kg, cosa c'è? Quello è completamente diverso. Completamente diverso. Filippo c'ha un petto allucinante, non si riesce più a tenerlo, sta diventando anche boh, non so, vabbè, adesso si vedrà quest'ultima gara che fa, lo ritiriamo, perché non posso fare un battaglia a continuare a andare, sta prendendo, sta prendendo delle vitamine che costano 70 euro una scatola da 10, quindi non ti dico niente, non sono vitamine per farlo ingrossare, sono le vitamine proprio per far sì che il cane rimanga sempre bello robusto e bello grosso, capito? Non è diverso da quello di Gianni, completamente diverso, no? Sono due cani invece, anche se sono di razza simile, però sono due cani invece. Poi Filippo, rispetto a tutti i bulldog invece che ci sono qua in circolazione, è un fuori Italia, diciamo, capito? Quindi è molto, molto più alto, molto più grosso, tende molto ad allargarsi, gli altri sono bassi, doffi, con anche bassi, capito? È molto alto, figo, alto e grosso, quindi bisogna stare anche molto attenti sull'orientazione, questo è quello che ha detto il veterinario. E poi già lo sta seguendo Wabu e Mario, quindi va bene, così. siamo agli animali, è brutto vedere quelle cose lì. Ui ui. Beh, riprendi già. È un attimo, sono al telefono. Eia. Se in Albania morti di fame. Bene, adesso visto che si parla di mangiare, mangio anch'io, dai. Me ne tocca anche a me. Comunque quel pollo dell'altra volta, sai com'era? Non era con le patate. Con chi ne stavo parlando dei patate? Con Gianni o con te? Era un pollo tipo fatto alla cacciatora, con cotto nel vino, con le olive verdi, ma sai quanto era buono? Buono, buono, buono. Con le olive belle sarde, salatine, mi. Era molto buono. Adesso lo sa questo risotto, mi, come si fa? Le ho detto a mamma, come farlo? E in effetti è buono. No, beh, il pollo mangio in quella maniera. Vieni, ciccione, vieni, vieni. Sono anche l'armadio, devi intendi, esci a morire a guerra. Lì, manca il canale, ce la fa più. Ehi, correndo, vai. Che? Mamma mia, non vale, ci ritti, esci, cazzo, mamma mia, mi attacca le biriche. E cosa stavo dicendo? Non me lo ricordo più. Ma tu riesci a tenerlo in braccio, quel cane? Non manco per le balle. Troppo pesante sta diventando, troppo manno. E poi non si fa prendere in braccio, forse? Si fa prendere in braccio, si è troppo pesante, è robusto, non ha ciccia. È grosso proprio, grosso, grosso, grosso. Se tu lo vedi è grosso, grosso, tutto muscoli, grosso, grosso. Era 35 già, è arrivato a 38 di nuovo. Grosso, grosso, grosso, non ha di ciccia, tutto grosso, è tutto grosso, grosso il cane perché è così, poi è tenuto nella maniera perché adesso ce ne altre due, poi basta, ma abbiamo deciso così, non facciamo andare più perché è troppo costoso, cioè adesso ho preso delle vitamine, sta con le vitamine che fanno 70 euro, va bene. E sono proprio rinforzanti, non io che servono per il corvino, no, vieni. A te, già corre, già salta, però così, come alto, mi è alto, grosso, maledetto, quello è male, devi intendere. E dimmi, manco lo coso, dimmi, questi muscoli se tu lo vedi, c'è proprio i muscoli che sembrano che riescono alle cusce, vai doppato qua. Ehi, tipo culturista, mi. Chiamalo Marcomini adesso, Marcomini. No, ma proprio siamo culturista, infatti, siamo culturista. Ciccio, ciao, bello, no. Siamo culturisti, allora. Bisogna stare attenti, ti avevo detto, bisogna stare attenti all'alimentazione. Poco, ma frequente, ma non piatti così come le fa Gianni, con tutte le capite. C'è il suo pasto completo, settimana per settimana, settimanalmente lui deve mangiare secco, poi una settimana deve mangiare solo, senza niente in mezzo, nulla, solo carne macinata, bollita, con un cucchiaino di olio, di cavallo o di manzo, non di maiale, tutta la settimana, oppure un'altra settimana solo pasta precotta, capito? Senza formaggio, senza niente, solo con un cucchiaino d'olio. Questo è il pasto che deve fare figlio, capito? Adesso questa settimana, cioè, quindi domani è sabato, da stasera, quindi da domani a pranzo, tutta la settimana, da sabato a sabato, tutta la settimana carne macinata, e bovero, solo carne macinata, senza misciare in mezzo verdure, niente, non ne posso dare, capito? Solo carne macinata. Ma carne macinata 500 grammi, barone. Ma cruda la mangia o cotta? Bollita, però che non sia secca, bollita un po' al sangue. Eia, eia. Troppo delicati certi cani, troppa dieta a seguire, mamma mia, un incubo. No, non è per me. Poi più di razza il cane, più delicato è, che ne so. devi dare la dieta giusta, mamma mia, il gatto apri la scatoletta, apri sceba, come ti si chiama, quello mangia e mangia, capito? No, ne ho io di quelle cagate, quelle sono porcherie, i gatti va bene, ma il cane così, con lo stomaco che hanno i bulldog inglesi, lascia perdere. 2000 euro mi è costato me, Marco, mi è stato male, me ne prendi i lacrime, stavo per prendere il cane, perso era me, perso, se sbaglia la trasfusione il veterinario, l'ha perso il cane, capito? 1800 più lo sdoganamento, 2000 euro mi è costato il cane, no, 150 euro, 50 euro, 2000 sacchi. Oi oi, ma in realtà è di Ilaria, no, è di Ilaria, c'è un regalo fatto di Ilaria, avevi detto, ma te lo devi carrare tu, sì. Costato, i soldi sono usciti da casa, capito? Inizialmente dovevamo farlo io e il ragazzo a Ilaria, e poi abbiamo partecipato in tre, quindi però sempre 2000 euro è costato Luca. Ciao, più forte di nonno, vedami te leccando. Sempre quello è costato. E poi tutto il resto, ma ti ripeto, lascia perdere, parliamo di altro, se no andiamo lì in casa buca. Ma era previsto l'arrivo di Filippo, però è arrivato, adesso ce lo teniamo. Viene al nonno, toglie la testa, cazzo, c'ha la mania di mettere la testa sopra l'alimentatore che c'è in fondo, che è sempre acceso, perché è caldo, ci mette il muso sopra, ma dimmi dove. Ehi, ma non gli poteva regalare un chihuahua? Avevi il chihuahua, mangiava poco, te lo metti in tasca per portarlo fuori. No, mi piace nei cani la lecca, mi vedi, la figlia le piacciono. Se vedi quello che c'ha il ragazzo ti spaventi tu, che è alto 2 metri, è più alto della lana, capito? Però pesa 75 kg, è sempre un grosso, è un bull mastiff, capito, di quella categoria lì, che fa paura solo a vederlo. Filippo passa sotto, ci gioca, però quando si incanta si gira, perché se non prende male si gira, capito? Ma da paura, da paura, c'ha la testa 2 volte di quella di Filippo, lascia aperta, eppure ce l'ha a casa. E poi c'è anche il bulldog francese, che è un piscio, sta sempre non prendere le balle, è quello grande, cazzo di buona la zampa sopra e me lo buca da cresciano, anzi da Gani. Ma il presa canario a lui, no? Sì, sì, il presa canario che è della famiglia del Bullmastiff, come cazzo si chiama, io non so dire, ma mia figlia le conosce tutte quelle là. Sono dei cani enormi, ma enormi però. L'ho visto su internet. L'ho visto, c'era una ragazza, questo cane era, diciamo, in piedi con le zampe di davanti poggiate sulle spalle della ragazza, della padrona, era più alto della padrona, una cosa impressionante. Mamma mia, guarda, un proprio massiccio, una cosa enorme poi, alto come l'alano, è grosso. È un orso, non è un cane, è un orso, mamma mia, può essere anche malo, Dipende da come lo educhi. Mi urgeva portare senza guinzaglio a fare i bisogni, però non si fa né avvicinare, neanche lui si avvicina agli altri cani, perché lo conoscono tutti. Gianni ha crepato 3 o 4 lì alla feroce e quindi non si avvicinano assolutamente. Lui fa finta che non esistano, capito? Se tu consigli il mio genero e uno è 82, mi pare un 83, infatti si chiama Giuda quel cane, deve mettere le zampe sopra e ancora venne da avvisarsi dritto, quindi lascia aperto. Quelli sono dei cavalli per me, non sono più cani, bisogna che siano addestrati bene, educati bene, perché se sbagli paghi, ma paghi forte però, paghi forte, anche se sei padrone paghi se sbagli, quindi, vabbè, Danni, ancora il telefono, sì. No, purtroppo mi si è scaricato, mi si è scaricato e sono messo in carica, adesso vediamo, se ne vediamo, perché se no partiamo. Oh, per tutti? Cosa per tutti? Wind non sta andando bene, dice che sia una fusione, insomma in questo periodo sono lamentati un bel di persone perché non gli funziona proprio la connessione Wind, non scarica nulla, quindi non ho WhatsApp disponibile, se si è mandato messaggi non li vedo, capito? Qui mi ha mandato un messaggio strano: hai finito il giga dell'offerta, cioè io ne ho consumato un decimo, c'ho proprio il contatore sul telefono, ho consumato un decimo del giga disponibile e mi dice giga terminati, cioè mi hanno mangiato i soldi, capito? Quindi per adesso non ne ricarico, ne ricaricherò alla prossima scadenza, però voglio che funzioni, sennò tempesto la Wind di telefonate a mangiare i soldi. Poi c'è una fusione, lo sai, Wind sta unendo con 3 e con quell'altro che si chiama Infostrada, quindi c'è tutta una rivoluzione delle connessioni, un pasticcio hanno fatto. Io c'ho 3 al computer e Tim al telefonino. Aspetta un attimo, da mangiare il cane, e poi dice non so perché adesso questa amica mi ha detto chiamami a casa perché mi si è scaricato il telefono, l'ho chiamata a casa, poi si era dimenticata che stava cambiando il gestore perché non gli va più bene quello che c'ha, sta succedendo un mezzo casino, dai, non prende bene, eccetera. A dopo, sto mangiando. Ciao. Buona giornata. Tutti morti? Scusate, mi ha portato il pollo mamma con le patate. Ero con la bocca piena. Quindi mi assento per un po', dai. Appena finisco, rientro. Parla Gianni mentre mangio, io dimmi cose schifose, così vomito. Stata mangiando solo di quelli che mangiano lo sputo, quindi quei fondi lo spazio che si mangiano tutto lo sputo quando vai. Se hanno fatto di sputare sera si mangiano questo. Ehi, anche le galline, amico, andavamo a Campanella a trovare gente, sputtavi per terra la gallina correndo per bersi lo sputo, che schifo, che bestie schifose. E noi come maiali le galline mangiano in casa, cacca vede e cacca mangia. E poi ci mangiamo le uova della gallina, amico, che prima si mangia lo sputo e poi nasce l'uovo dallo sgarrascio, che schifo. All'interno del suo corpo per me. Eccomi, spariti siete. No, Gianni ci dovrebbe essere. Io sto pranzando, dai. E Gianni era qua un attimo fa. Forse al telefono. No, oggi ci sono qua, dai. Sto parlando una cosa, insomma. Io ho 3 a casa, Marco, trovo bene, l'ha installato Maurizio, mi trovo bene, non ho mai perso un colpo, era il computer che fuori l'avevo comprato nuovo, quindi perfettamente, c'ho il sistema wifi e sul telefonino uso sempre Tim da una vita, è un cambio, non cambio, va bene così, va bene. Sì, la musica che ascoltiamo. Beh, mettiamo qualcuno a portare la musica della piazzetta. Ah, Claudio, beh, eri andato poi a nella piazzetta dove c'era la festa. Sì, ma c'è anche oggi, c'è la domenica, 4 giorni di festa c'è qua. Beati voi, qua non le fanno. Cioè qua a Matericrisia non è che facciano un granché, no. Lo fanno più a latte dolce, a carbonati, queste cose. Facciamo per la piazza d'oro, la voluta, non simula come è stata costruita la chiesa, ed è molto bella. Ci bisogna un po' di palco, perché c'è tutta la gradinata giro in giro, come un anfiteatro, capito? Quindi molto bella, sono illuminate, sono i fari, sono belle le illuminazioni pubbliche, poi ci sono anche dei fari colorati che hanno messo. E lì sottomattina c'erano 2 camion della mettetta urbana pulendo, e si hanno fatto notte fonda, io già mi sono drumito. E le frittelle le mangiate? Mangia, cosa buona ti hai mangiato? Pollo con le patate. Buono. Divorata girà. Mezzo chilo di carne macinata. Divorata. settimana, lo stavo spiegando poco fa. Io purtroppo come effetto non posso farlo già, capito? Perché lui mangia una settimana secco, solo crocchette senza niente, con appena appena proprio un paio di cucchiai di acqua calda e basta. Poi una settimana mangia solo pasta bollita, senza formaggio, senza niente, pasta precotta per cani, quella con le vitamine, quella che vengono a casa degli animali, quella lì, con un cucchiaino di olio crudo d'oliva, e questa settimana solo carne macinata, ammazzen, di cavallo, o di manzo, o di vitello. Questo sono sulle cose, solo carne macinata, carne senza nessuna zucca, bollita leggermente, proprio un pochino al sangue, con un cucchiaino sempre di olio d'oliva, basta. C'è qualcuno che vuole entrare, sta riuscendo male, chi è? Avanti sul canale 10, se vuoi entrare il canale è aperto, non ci sono problemi, ma ti prego il nome è teleportante quando sta parlando qualcuno. Sì, già, ma per carità, non mi hai capito, ognuno, infatti ti stavo dicendo, ognuno c'ha il suo, purtroppo Filippo è così, non posso nel modo più assoluto fare di più di quello che il veterinario mi ha prescritto, perché altrimenti diventa un gojo, una malena diventa, capito, assimila troppo, poi lui esce due volte alla settimana con Mario, va in spiaggia a correre eccetera, sta molto qua giù, è un po' sedentario come cane, capito, non fa, capito, se no ne avrei dato di tutto e di più. Cucino per me, cucino anche per lui, le verdure le mangia, ma sai come mangia le verdure Filippo? Ah, da paura, bollite, le zucchine, bollite, tu li vedi, se le divora, qualsiasi, le carote, bollite, se le divora, qualsiasi, i finocchi, le piacciono anche i finocchi, tutte le verdure le mangia, tranne chiaramente le melanzane, non le darò. Capito? Però tutte le verdure le mangio, le patate lesse le piacciono moltissimo, ma ne ho poca di quella roba io già, molto molto poca. Io ne le metto ogni volta che ho un pasto a Tyson, gli metto sia le zucchine che le carote, perché mi ha detto il veterinario che le fanno molto bene al pelo e tutto quanto. Il formaggio, come ha detto il veterinario, li mette non tantissimo, però un pochino di formaggio di grana quando li faccio la pasta. Li mette perché li fa bene alle ossa, perché contiene calcio. Già, invece il mio veterinario mi ha detto il contrario, cosa vuoi ti dica? Il sistema per le ossa, per il cane, è l'osso buco, ok? Bollito e glielo dai, lui si mangia quello che c'è dentro, ma ci deve essere però l'osso buco, deve essere bello, sotto il vitello, capito? E glielo dai. E lui se lo rosicchia, quella polverina che lui tira fuori dall'osso fa sì che lei fa bene per le ossa. Se no io c'ho, non io, Mario, lui lì dove sei andato tu, è molto amico lui del macellaio, moltissimo, perché ultimamente non 5 kg, me ne ha portato 30 kg di carne di cavallo, 30. Ho dovuto selezionare e portare anche a casa del mio cognato, mettere nel frigo del mio cognato, tu immagini. Per vita regalata. E lui si fa praticamente si fa mettere da parte, quando tagliano con la sega le ossa, la polverina se la fa tutta mettere da parte dentro una bustina, io gliela do, col cucchiaino a Filippo gliela do. Scusate, ma siamo al telefono. Ia. Tenghiano. Vabbè. Purtroppo anche così, quando ce l'hai bisogna tenerlo, e questo è così, adesso va, ha mangiato, bello sazio, prima viene, ti rompe le palle, poi va, sicuri, adesso è tagliato lì, sotto la TV, come mai non è venuto qua E vabbè, vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare, lasciamo un attimo di bianco, avanti sul canale 10, non le piace il canale 10, vabbè, ogni tanto ci provano a disturbare, anche se noi siamo sempre qua, non rompiamo la scatola a nessuno. Non ho più sentito a Giulio, non ho un messaggio su WhatsApp, come sta? Attento Giulio. Un deserto. Ma se chiami Gianfranco c'è di sicuro l'ascolto, provami. No, non lo chiamo neanche, intanto sempre lì, che sta ascoltando, non entra mai, sempre in ascolto, sempre indaffarato, con i satelliti, con i pianeti, con i sommergibili. Oggi è venerdì, non è rientrato ancora, forse c'è rientro oggi. Oh, Delta, come ti chiami? Beta 6, Delta 6, boom. Alfa 1, no, Alfa 1 si chiama, Gianfranco Alfa 1, tu Alfa Beta, Alfa Charlie, Alfa Greco, Alfa Gualla. Sono arrivato alla banana, Piano con la banana, Marco, piano, molto piano con la banana, perché tu sei molto pericoloso. Ricordati che la figlia della ziracca di Camboni stava tutto il giorno con la banana, pur di non farcela mancare. Ne ho preso 10 l'altro giorno. E sai perché le prendo volte? Perché vabbè, mangiamo anche noi, però le mangia anche Pippo, tu le rallucci, e piano piano si siede a morso, si amania piano piano. Oh, ma le può mangiare le banane? O la frutta in generale? Sì, sì, banane, pere, mele, sì, banane, pere, mele. Come ricordo qualche altra frutta, vabbè, mandarini, aranci, queste cose così, e soprattutto con la buccia, io la mela gliela lavo bene con la mucchina e poi gliela taglio a pezzi con, gliela metto una sacciottola a pezzi con la buccia, perché la buccia la fa molto molto bene. Lo credo, la maggior parte delle vitamine sono tutte là, sono proprio nella buccia. Nega, aspettare il cane a mangiare la frutta, no? Non lo sapevo. Malato Filippo con la banana, tu lo rimbiati. Un bel. Poi, per esempio, mia moglie quando fa il menestrone, con tutte le verdure, vedi che già ne ha appunto, io glielo do. Però non ci deve essere né cipolla, né spezie, né niente, capito? Glielo fa a parte. Lui lo fa in una maniera, lui lo fa diverso, con tutte le verdure, senza niente, con un pochino di papere, quei dettagli piccolini, capito? Spero che ci ho le mani fatte un po' di olio, devo premere col gomito. Vabbè, se fosse stato sposato ti avrei detto, pigia con le corna. Ehi, io ce l'ho avuta le corna anche da fidanzato. Ma non è mola cos'è? Non è un problema, una moda, non ti preoccupare. Sì, dice ormai è normale, capito? Anzi, strano se non ce le hai le corna ormai. Infatti, è così, è una cosa normale. Ci siamo mai d'accordo. Se mi ha mandato su WhatsApp la fattura di... La fattura di Franco Lucedo portato a fare tagliando la macchina, la massa che ne rifai, due manicotti, due candelette, due tisci, Maria Gara, qua, la trigurante, allucinante. Già si fa pagare bene, e poi la mano d'opera. 450 euro. Oh, all'anima. Adesso allora la porti. La macchina va portata lì. Ho anche due manicotti, due raccordi di bimetro, turbina aria, filtro aria, filtro olio, filtro gasolio, filtro particolato, filtro, cazzo non ti filtro la camicia, filtro aria condizionata, ricarica anche aria condizionata, c'è, ecco facesse lui. Ormai lui fa fare tutto a quei ragazzetti che c'ha lui. Io avrei preferito si mettesse le mani personalmente, almeno, sai, ha più esperienza. Se invece quei ragazzi magari dici fare una cosa, la fanno un po' sbagliata, ma non mi sono mai lamentato, almeno in passato, dai. Non avevo nemmeno Alfa Romeo, avevo Fiat. No, ma come Alfa Romeo, Franco, molto bravo. È molto bravo. Io prima andavo da Giampiero a De Rosi, è molto amico di mio genero, però mi trovo meglio con Franco. Per quanto riguarda l'Alfa, Giampiero è molto bravo, esce BMW, Mercedes, macchine grosse. C'è anche Battista Nuvoli, vabbè, Battista non sta facendo più niente, ci sono i figli, però sono molto bravi anche loro. Sono pochi meccanici a Sassari bravi, veramente. Una certa cultura per la macchina, ancora più questa ogni volta che arriva la prova, la mette sotto diagnosi e c'è carta bianca, perché io dico fai sempre tutto quello che c'è a fare, non stai a cincischiare, infatti avete c'è un vecchio andavette che erano mezzo andate ed era subito messa nuova, però anche Franco ci vuol dire che vabbè, no, questa è a posto la macchina, lì. Per come la usiamo noi e per come la teniamo sotto controllo è perfetta. Avevo anche la ripresa, i tocchini, Roberto, due anni fa, adesso devo farla girare di nuovo. Va bene, e beh, doppio root, c'è ancora il telefono, azienda. A me mi sono ammazzendo a messaggi d'azienda, a me mi sono ammazzendo. Vado a farmi le mani un attimo. Io. Ecco qua, devo tossurare anche il lavandino perché sì. Ma Gianni, cosa hai impegnato al telefono? Cosa? Sicuramente sta chattando qualche donna, mia. Oh, se lo chattare non fa bene. Poi se ne accorge la moglie, gli tronca il mattarello sulla testa. E noi dici Gianni, no? Tu l'avresti fatto, ma Gianni è fedele. No, io nel mio piccolo sono stato fedele, capito? E una che non è stata fedele, capito? Ma già se ne è girati pochi. Oh, la fila c'è, il bigliettino, è diventata una filiale quella lì, capito? Così è? Eh sì. Infatti la madre mi ha detto, adesso ragazzi a casa non ne porti più. Quando ci avrà il prossimo ragazzo te ne stai fuori casa, non che ogni volta li porta, li presenta, li porta a mangiare a casa, lo stesso a me. Presi dai genitori, portare a casa, dovevo andare al mare, alla casa al mare con loro, se no casini enormi, sempre con loro dovevo stare, a grigliare in pinetta con loro, capito? Mamma mia, io ho detto io voglio stare con te, no con i tuoi genitori, ci ho fidanzato con te, no con i tuoi genitori. Mamma mia, che brutto anche sei genio, per carità, io mai, io ho fatto 5-6 anni di fidanzamento, ma qualche volta che diceva vai vieni, siamo a Maria Pia, venite al mare, vabbè, voi iniziate ad andare già, vabbè Dio mai. Sempre per i fatti miei, come assolutamente. Mai sono stati invadenti, mi succede la verità, mai. Mai mi hanno preteso niente, assolutamente. Io pretendevo da loro, ma loro da me mai. Di fidanzamento? Vabbè. Io mi gioco qui, vado prima di te, però. Io 5 anni e mezzo, quasi 6 anni già. Io mi sono sposato nel 85, tu nel 88. 89. Sì, infatti la 10 a 30 anni. 29, dai. Vabbè, Marco mio ne avrebbe avuto adesso... Tu quanti anni avrebbe avuto Marco? Tu? 21, il maschio avrebbe avuto 21 anni adesso. Ma non è nato. Non è nato, è nato, è nato. Ma è morto dopo che è nato? Subito dopo, voglio dare dopo. Sai cosa è successo a mio collega? Che è passata per carcere qua, ma è stato sempre la scena. Gli hanno detto che il figlio aveva un problema al cuore, lo dovevano portare a casa. Cazzo, aveva fatto... C'era il carcere di un figlio che ha fatto un fricco, ha preso la macchina, che ha fatto la parte, non ha detto manco niente. E è andato subito a me, lo stavano partendo con l'aereo. E praticamente è morto mio è nato vivo, noi eravamo già preparati perché l'ultima ecografia è risultato che le mancava il ventricolo sinistro, quindi eravamo già preparati, ma non per Cagliari, per i Gagliarini, però purtroppo non c'è stato niente da fare. E vabbè, pazienza, vuol dire che era destino, se non avrei avuto un maschio, una femmina, non è 29, non è 21. E mi sarebbe servito oggi un bel maschione, invece pazienza, mi andrebbe uscito, capito? Quindi il nome Marco per me è sempre molto valido, capito? Marco, fai da bravo. Ah, avresti avuto due figli. E come lo chiamavi? Ah vabbè, Marco l'avete già stabilito. Ehi, stabilito già. Quindi era come un Claudio Bis sarebbe stato, dai. Già se prendeva da te, mamma mia, già era rompiballe, se prendeva da te mi. Faraoli, mamma mia, Faraoli, delinquente, non forse hai capito che è stato battezzato anche. È stato battezzato prima di essere seppellito. C'è la tomba piccolina, il cimitero. Sono andato novembre, però ci vado poco perché mi fa, non mi fa insomma bene, hai capito? L'aria ci va più spesso, noi poco ci andiamo, poco poco, l'aria ci va più spesso. È stato battezzato, quindi proprio battezzato come Marco. Eia. E invece io quando dovevo nascere ero indecisi a casa se battezzarmi Davide oppure Marco. A mamma piaceva questo nome, anche Davide, no? Anche se è un po' ebreo come nome, sai, David, no? Davide voglio dire. E poi nonno ha detto no, che a Florina c'è uno Davide antipatico, non lo posso vedere. Allora abbiamo scelto Marco, che è anche più cristiano come nome. Questi molti danno questi nomi tipo Miriam, questi nomi un po' ebraici, mi. Suona, suona. Oppure, che ne so, Giacomo, questi nomi un po' della cosa ebraica, capito? Poi se succede qualcosa, gli arabi se la pigliano soprattutto con i pseudo-ebrei, capito? Vabbè, certo che sì. Certo che sì. E vabbè, comunque, cambiamo discorso, non sono cose belle. Ciao Gianni, Gai Est. Gai Est. Eia, eia. Oh, ero tra le altre però con un'amica adesso, non mi molla, ma meno male che ho trovato la sua, mi stanno chiamando in radio, scusate, devo lasciare. Figurati Marco, che subito come ti ha sentito a te, che da telefono con un'amica si è sbucciato la banana. Ti ho detto stai attento perché è una cosa seria, mangiare la banana, la figlia della tira cari camboni, la teneva tutto il giorno questa banana in mano, un pezzettino, non se la faceva, tutto il giorno lì doveva mangiare banane. Eia, eia, eia. Bene, aspetta che adesso mi sto mangiando una Fiesta, quella buona, che dentro ha quella specie di liquorino all'arancio, ma è buonissima, buonissima, riprendi già. Oh yeah, mangia i pochi dolci, fanno male ai denti, e che sta buonissimo. Non mangiare metà, è proprio così, da uno che non ne può mangiare per niente. Beh, per i diciamo che sono già andati. Adesso deve partire anche la glicemia, così sono al completo. No, te lo auguro, Marco, la cosa che non si augura, Marco, al peggior nemico. Tu ci scherza, oh, queste cose, sì, sono cose brutte, lascia perdere, Marco, ma cose brutte veramente. Cose brutte veramente. Bisogna stare molto attenti con l'alimentazione, perché se sbagli paghi. Tu sei ancora giovane, non sei come me con i Gianni che abbiamo già superato da un po' i 50 anni, quindi date una regolata, ogni tanto io i dolci non ne mangio quasi niente, dico quasi perché qualcosa sempre la mastico, però rispetto ad altri non sono molto amante dei dolci, anche perché mia figlia non è molto d'accordo, quindi in un mese può fare una torta al mese, durante la settimana più o più non se ne parla, io un po' vado perché sono in giro qui la mattina, la pastarella me la mangio quasi sempre, però a casa nonostante ci siano sempre i dolci non è fattibile. Io purtroppo sono molto goloso. Io ti dico che sono pericolosamente goloso. Io per i dolci impazzisco. Per me mangiare i dolci tutti i giorni, più volte al giorno. Anche il gelato, vabbè, il gelato è più estivo. Però guarda, una malattia per me, io non fumo, non bevo, almeno non bevo abitualmente, no, ma ho il vizio dei dolci, è inutile, un vizio l'uomo lo deve avere, caspita, e a me è capitato quello. Oh, lo sai quando potete mio padre mi disgridava quando mangia con troppo, mi diceva mangia di meno che ti prendi a me, mangia di meno che ti prendi a me, e mi io dicevo vai a rompere il palo per me, perché era stato che manca a casa, diceva non faccio per il bene suo, mi dice, e aveva ragione, purtroppo i genitori che sono restrici e pedonali. Tu immaginati, mio fratello ha preso il diabete a forse aveva 17 anni, 16-17 anni, ma si mangiava pacchi interi di caramelle, ma pacchi interi, cioè lui quando era a scuola stava a scuola e non fumava, ma anche un po' a casa fumavamo tutti, e si mangiava pacchi interi di caramelle, ha sempre mangiato caramelle, cioccolati, merendine, era una cosa allucinante. Adesso qualche volta quando siamo tutti assieme i dolci già li mangio, però ne ha 58, 59 a marzo, 59 a marzo non fa mio fratello, e quindi conta quanti anni è. Ma il diabete lui? Cosa? Non eravamo di quelle famiglie che la domenica mangiano sempre le paste, no, quello no. Alle feste sì, a qualche festa comprava i dolci, mamma, cosa, le torte non se ne faceva né a carnevale, e poi basta così, non ci mangiavo. Mi ricordo sempre che diceva non bere acqua quando mangi le frittelle, se vuoi bere bevi le frittelle, se no ti fanno male. Ma faceva frittelle di ricotta, le frittelle normali, le faceva tenere i frutti fritti, tutte le cose le sapeva fare un bene, e faceva tutta la sculaccione, la pasta, la lavorata. Sì, beh, anche mamma faceva molto, soprattutto i fine settimana, la pasta. No, noi eravamo avviziati già, lasciati lì. C'erano tre donne, due maschi, ma la domenica non mangiavano mai le paste, non mangiavano mai i dolci. Poi era così, poi nonna che abitava sotto, tutte le settimane o fa le frittelle o quello o quell'altro, già si mangiavano i dolci a casa di mamma, si mangiava, ti ripeto, mio fratello ci è caduto anche per colpa sua, sì, ma c'è il diabete che aveva 16 anni, 16, 17 se non mi ricordo esattamente. Ne ha 59 a marzo, 27 marzo fa 59 anni, quindi immagini tu, è una vita, ma sta bene, non ha mai avuto grossi problemi, assolutamente. Una volta solo mi pare a lavoro, ma causa anche del caldo, era andato in la sanità di Cimia Umbe Alta, però altri casi non ne ho mai sentito di mio fratello. Tutto qua, quindi tu date una rigurata, tu come il pipistrello non dovresti mangiare dolci, dovresti mangiare più mosche, insetti. Io però tanto non mi ha cambiato la cura, la glicemia ce l'ho come una persona normale, 99, 98, 97, prima c'era 300, 600, 400. Ma era dovuto tutta la medicina che non andava bene, perché io sto mangiando le stesse cose che mangiavo prima e con vicini è molto diverso. Sì, già, ma tutti regoli, sono persone che non ne fotte niente, capito? Tutti regoli, ti controlli, sei sempre attento. Molte persone a me fanno arrivare, io ho due colleghi che hanno diabete, tutti i veri, dalla mattina alla sera, allora come arrivano? Caffè con due, in ufficio ripianto c'è la macchinetta, caffè con due cosi di zucchero, da mettere zucchero, e subito la sigaretta in bocca. Ah, a metà mattina, tu lo vedi, mangiando magari si portano le merendine da casa, e poi il panino con i saccati, con cose, così non anda, non va assolutamente bene. Capito? Poi c'è uno che a parte il diabete è fisicamente un crocco, capito? Quando c'è freddo ed è sempre a bevi in mano, cioè non si fanno queste cose, perché ti stai ammazzando con le mani tue. Non dici la roba da bere, in genere tra il vino che ne puoi bere un bicchiere a pasta, alcuni compresa la birra fanno male, diciamo una volta ogni tanto se per pizzeria un bicchiere non ti va di più da qua, però se tu continui a bere, lui a me me l'ha detto il dottore, una volta alla settimana puoi strappare, poi nella settimana ramadà, cioè devi cercare di ingerire le cose che puoi mangiare, se mangi paste, se mangi carboidrati in eccesso, tutte queste cose qua fanno malissimo, non devi bere, non devi bere roba gazzata, e tutte queste cose fanno malissimo. Poi tutte le cose che hai cercato, che ho preso il tuo collega, sono tutti impatti negativi per gli abiti. Sono d'accordissimo con te, ripeto, ribadisco che molta gente se ne sbatte e quindi facendo così ti crei problemi ancora di più, se invece stai sotto controllo, le cose vengono fatte gradatamente, insomma seguite eccetera, pian pianino fa molto meglio, ecco, tutto qua. È così, e vabbè, io non ho mai avuto questo problema, speriamo bene, magari che continuo così, però ti ripeto, io ho una alimentazione molto, non sono porcaccione, ma già molto regolare con tutto, soprattutto in questo periodo, perché ero salito un po' di peso, adesso pian piano sono risceso di nuovo con questa cura che sto facendo. No, sono gonfio dal cortisone, c'è un maledetto, mamma mia. Lei col virale fa quell'effetto di gonfio, fa bene una cosa, fa male all'altra. Marco, rata pigliara, cosa stai mangiando? No, adesso nulla. Comunque sì, fa tutto male alla fine, le bibite cassate fanno male, tutto ciò che è buono fa male, poi giustamente come ha detto Gianni, anche se mangi il merluzzo e un asello può essere contaminato perché non sai da dove lo portano, e poi la roba può essere soprattutto in scatole piena di antiossidanti, conservanti. quando addirittura non è adulterata la roba, come quello che aveva il latte acido per fare la mozzarella, per correggere l'acidità ci ha messo la soda caustica per fare la mozzarella, perché quella è basica, no? Ha corretto l'acidità con una base, capito? Per fare mozzarella. E fa tutto male, il fumo fa male, il bere fa male. Anche il sesso fa male, perché se non stai attento ti pigli o una malattia venerea o se, no, o se peggio ti capita anche l'AIDS lì, anche se curabile sei bollato, non puoi più fare sesso, insomma fa tutto male alla fine, cioè di qualche morte devi morire allora io preferisco morire col dolce. Io preferisco invece fare sesso e rischiare. No, proprio quello no, vedi? Minimo il profilattico, minimo, perché potrebbe non garantire, capito, il blocco da virus. Dicono, poi bisogna vedere anche, ci sono dettagli che non posso dire al baracchino, insomma, però potrebbe non essere sufficiente il... No, rischiare no, poi vabbè, magari hai detto scherzando, no, per quello no, preferisco rischiare mangiando dolci che non facendo sesso sul selvaggio, capito? Non sai mai chi ti capita, mamma mia, carità. Sì, vabbè, bisogna rischiare la vita. No, te l'ho visto preservativo, ma rischio c'è sempre sulle cose. Basta che magari togliendo le cose l'ultima che parte intima, la donna è via. Mi ricordo che anni fa avevo preso quelle acque, quelli ultra resistenti, spessori doppi, erano proprio blindati, quelli erano da guerra, erano, capito, spessore doppio proprio per maggior sicurezza, capito, in due sensi, sia per le gravidanze sia per le malattie. Avevano il bello che erano, siccome sentivi meno, era un po' ritardante, capito? Riuscivi a durare di più, proprio perché sentivi meno. Quello era utile per me. Ma quali sono quelli che ti sono scaduti dalla scala? No, io già, quando scadono o se sono stati al caldo, tipo nello zaino estivo, li butto, non rischio di rovinarli. Ci mancherebbe. Vabbè, da Ushana hanno fatto, caspita, hanno venduto questi, ne hanno portato una cassa, proprio un carasciu, tre profilattici, pare un euro o anche meno, di una marca che io non conosco. Magari funzionano bene allo stesso modo, perché ormai fanno, i controlli che fanno sono con acqua, con aria e controllo elettronico. Cioè non è come una volta che magari trovavi i profilattici bucati. Certo devi stare attento come li usi, che non anelli, che gli anelli o le unghie non li strappino quando li metti, no, perché certe donne hanno certe unghie, no? Magari te lo applica lei e gli fa un taglietto, è un casino. Canale Polo per giornale. Si è astenuto il canale. Sono lezioni di sessuologia. Presentiamo se solo con Marco Rattapignano. Io volevo comprendere una cosa, si ritrattava con i pipistrelli ma non rimane incinta. Oi. Poi ho visto che in farmacia ci sono quelli taglia maxi, quelli taglia extra large, tipo Rocco Siffredi, che ci nuoti dentro, uno normale ci nuota dentro. Taglia extra large, sì. Pronto, sì, Gianni, non ridere già. Chi è Giuseppe? Ciao Giuseppe! Ah, Giuseppe, questo è Genio dal camper, ciao Genio. Cazzo, è uguale a Giuseppe, uguale. Ma lo voglio vedere un baffi, va a vedere. Genio, dove sei? Non sei uscito. Metti l'eco. Non sei uscito. Farsi contatti. Sì, veramente li stravolge la voce, non è la sua voce quella. Giuro, sembra Giuseppe di Alghero, proprio uguale. No, così non va. Io col DM 1000 non esco così, confermate. Ma veramente, davvero, su quell'apparato ci voleva lo ZG da palmo, mi. Quello che non piace a Gianni, ci voleva lo ZG perché esce con toni più acuti, quindi compensa il baracchino che già il modulatore suo è leggermente cupo, capito? Gli avevo anche detto che gliel'avrei dato, avrei fatto scambio per dire, se proprio usciva male. Ma non è che mi piace il microfono, è che non è serio, c'è qualcosa già, sembra un giocattolo, sembra un microfono di giocattolo, è quello che non mi piace, non dà la serietà del microfono. Vabbè, però al colore non ci penso. Sì, il giallino, ma alla fine non è importante che esca, che spinga, poi se è giallo, l'importante è che non sia rosa. Riprendi Eugenio, non stai uscendo, vedo la portante mutta. E poi ma chi è che gliela fate quelle saldature al microfono? Non lo so. E scopriamo il colpevole. Oi oi oi. Si sente che mi sto stiracchiando, tipo il gatto. Ma quando sono io, quel microfono andava già bene per quell'apparato, ho fatto comprato da me stesso, lo stiro andava già bene, non gli aveva fatto nessuno, lui probabilmente l'ha aperto e ha staccato qualche filo di suggestione. Andava molto bene l'F10, F12, meglio di quello ZG, mi Marco. Io ce l'ho per il DAC, ma sai quanto funziona bene? Io quale ho in macchina? L'F10 mi pare, il vecchio CTE, ce l'ho dall'inizio anni 90 mi pare. L'F10 non spinge molto, ma insomma. Sì, perché dai, non, cioè questo riceve pure acuto come baracchino, ma lo sento proprio gli aggiunge 50 anni di età quella modulazione. Tira sull'eco, stai uscendo male oggi, metti l'eco, di nuovo quel filo, già regolaglielo tu. Io lo metto sempre tra 3 e 4, dietro le rotelle. Sì, basta metterlo 3 e 3, 3 e mezzo e 3 e mezzo, pari mi, va sempre bene, ma il problema è che è la radio di base che non va, che non è buona. Adesso mi dispiace perché gli avevo raccomandato io quello del microfono. Cioè, il microfono sono sicuro che va bene, però accoppiato quell'apparecchio non anda. Con questo 3009 va bene invece. Oh, non lo capisco quasi, è basso anche il segnale qua. Io traducete, Claudio riprendi. Ha detto che c'è un filo staccato, c'era un filo staccato, ma l'hai riattaccato oggi. Ascolta, ma il micchini della radio, la manetta ce l'hai. Come innesca? Metti la manetta. No, allora non sono fatte bene le connessioni, cioè, perché non stai spingendo, è troppo chiusa la modulazione. Cosa vuoi che ti dica? Sento tonalità molto bassa, non sento gli acuti, l'eco non è quello suo. Cioè, quel microfono deve pompare lì. Ma l'altra volta i controlli che gli avevate dato erano così appena l'aveva messo? No, andava molto meglio la prima volta che l'ha collegato, poi non so cos'è successo. La pazzitudine. Prova oggi? Allora aumenta un pochino l'amplificazione del microfono, ecco, lascialo così a 5. E beh, lascialo così, aumenta adesso l'altro, quello a 5, mettilo a 6, vediamo. Sembra che vada meglio, no Marco? No, aspetta, però sì, io sento slecco, però allora la regolazione l'amplificazione del DM1000 si regola da dentro, perché da fuori non riesci. L'eco, sì, l'eco fa da contorno, ma deve uscire già di base bene. Forse non è adatto, te l'ho detto, il Lagan 48 vecchio ha questo modulatore di bassa qualità che c'è cupo, è come la 548 SX della Intec, è un modulatore di chicchia, gli devi mettere un microfono adatto che abbia toni più alti di conseguenza. Insomma, vabbè. No, ma così va molto meglio rispetto a prima, dai, va meglio così Marco, va molto meglio. Beh, riprendi con Gianni, io ho il cane in agitazione che vuole uscire. Ci sentiamo tra 10 minuti, salgo subito. Eia. Ok, da buona passeggiata. Gianni, allora. Va bene. Ma l'aspettavo quasi. Se su quel tipo di apparecchi omologati bisogna mettere roba che esce più acuta. Mi ero illuso un po' che andasse meglio, ma alla fine mi... è che non ne vendono più ormai 3009. In macchina ci avrei visto meglio un 3009 che esce già pulito di suo, più quel microfono. Certo, prende più spazio il 3009, ma credo che non campi perché la plancia grande grande e bene o male uno riesca a mettercelo il 3009. L'Alan 48, insomma, un po' ai minimi termini, dai. Solo quello di Gianni esce bene. È basso di segnale, non lo sento. Io però c'è l'Alan 48, se non mi piace sull'Alan 48. Devo portare la legge quando è per farmi con le connessioni. Perché qui sono un po' difficili, sono quelle assegne. Se le faccio fare la media, ci avrò messo un po' di tempo in realtà, volta non stavo facendo affatto. Ehi, però basta guardare su internet le connessioni, spesso ci sono schede, metti il nome dell'apparato, bene o male ti appare uno schema e ti dice pin 1, massa, pin coso, capito? Un po' ne va la cieca, va a tentativi, così ci sono buoni tutti, anche tu lo potevi fare. Dicevo che l'Alan 48 tu dalla macchina, per esempio, esce bene, non esce così. Sì, vabbè, ma non è ADT, c'è il microfono normale che è apparato davanti. È l'apparato che può. E poi il tuo c'ha il modulatore doppio, no? O no? Sì, sì, il modulatore, camera ecco, un po'. Eia. Bene, via via. Anche oggi non si esce, non siamo usciti. Però sempre il vizio c'è la mamma. Quando non ha soldi non esce, capito? E tutti mi dicono, ma tu puoi uscire quando vuoi, puoi andare in capo al mondo. Il problema è che i soldi non ho nemmeno io, e quindi io se non ho soldi, caspita, non mi posso pigliare un caffè al bar, non mi posso prendere niente, capito? Quindi aspettiamo un po' e poi ci rifacciamo, dai. Marco, tu non esci con il pesce, tu puoi uscire anche a fare una chiacchierata, andare a fare una passeggiata, e cosa non è che i suppi si necessitano, perché necessitano troppo, se uno non ne ha, fa finta di nulla, esce lo stesso, si fa una chiacchierata, se va a fare un giro, ecco. Tanto per non stare in casa, io lascio per dire, non solo per portare in casa, non lo portare fuori zona, fuori zona perché si è pensato di questa cosa di tutti che hanno messo in bastardo. Ma chi l'ha passato il topicida, il comune? No, penso che siano, non lo so, non te lo so dire. Perché questa ragazza mi ha avvisato di non portare in casa lì perché un cane si è sentito male, scappava, cose non lo potevo dire. Ciao Eugenio, ci sentiamo, dai, buona serata. Ehi, ciao Eugenio, purtroppo anche il segnale qua è basso, il tuo, e quindi non faccio fatica a capire con questa radio un po' troppo cupa, cioè un po', cupa. Ehi, cosa stiamo dicendo? Ma non è che hanno proprio buttato il grano rosso? Sono dei granuli, lo chiamano grano rosso, sono dei granuli tipo checchi di riso, di grano, e sono rossicci, e quello è proprio il veleno per tutti. E se il cane lo mangia è molto pericoloso, molto, muore di anafilassi praticamente. Il grano rosso praticamente contiene una antivitamina K. La vitamina K serve per la coagulazione del sangue, no? Se tu gli dai questa antivitamina K, il sangue non coagula, cominciano a rompersi i capillari, comincia a sanguinare dappertutto, capito? Il cane. Anche sanguinamenti interni, capito? Emorragie interne. E muore per quello. Allora, l'antidoto, se un cane viene intossicato, è dargli vitamina K. una massiccia quantità, insomma massiccia, ma quantità adeguata di vitamina K, e i capillari smettono di sanguinare, insomma ripristina il normale flusso ematico, dai. Sì, sì, lo so, insomma, anche quello di Claudio è stato fatto adesso un trattamento, anche quello di Claudio è stato fatto la tutta la notte, non lo sono fatto, l'ho preso per il chicco. Eia, sì, ha detto infatti che ha rischiato, era proprio il cane, era andato quasi. Invece per le lumache usano un altro veleno che non so cosa sia, come funzioni, me lo voglio studiare, su internet c'è scritto cos'è. Mi pare che qualcosa che ha a fare col butano, butadiene, ma cosa del genere. Dice che se mettevi un certo tipo di, non è lungo da spiegare, insomma se usavi certi fornelli da campeggio di un certo tipo, di notte in campagna, poi di notte la mattina dopo trovi un bel di lumache morte intorno, è qualcosa che ha a che fare col butano o col butadiene, una cosa la devo col butanolo, c'è questo butano dietro, comunque devo controllare, dai. Sì, e sfruttano quel principio che devo studiare, però non credo nemmeno che esistessero i lumachicidi, insomma alla fine forse i insetticidi, che poi sono come i pesticidi, no? Lumachicidi, topicidi, questi animali, poveri animali, non possono uscire tranquilli, che c'è sempre o una disinfestazione o qualche stronzo che si diverte, capito? Sì, li mettono anche dove pascolano i cani, così il cane basta che lo duri, subito si piglia, anche se sta nel cane, capito? Secondo i quelli che sono fatto durare solo che fanno già male. E adesso non so dove portarlo, me lo carico, lo porto giù in cortile, dove sono sito di vaccinità. Dentro dove ci sono tutti i macchina, in cortile, in casa, che lo faccio quasi tutto. E tu portalo dalla parte opposta, non dove vai tu, dalla parte opposta, in quelle vie dietro casa tua. Insomma, già ci sarà un'alternativa per farlo camminare un po', dai. L'importante è che non gli fai leccare nulla a terra. Finché annusa è un conto, ma se vedi che è troppo interessato, non fagli leccare nulla. È un casino, mamma mia. A proposito di pesticidi, invece, hai visto che avevano ammazzato il fratello di quel pazzo coreano, King Yo Nam, il fratello ciccione di quello scemo coreano, quello che sta testando i missili verso il Giappone, la Mars del Giappone. Dice che una ragazza l'ha preso da dietro e gli ha spruzzato in faccia uno spruzzino, una cosettina così. Questo dopo un quarto d'ora, prima ha parlato col personale, poi ha parlato con le guardie, hanno fatto in tempo a accompagnarlo al centro medico dell'aeroporto, ha cominciato morto, secco ci è rimasto. Ed è una ricerca, pare, poi bisogna vedere le palle che dicono internazionali, che l'abbiano ucciso con del gas nervino VX. Secondo me era molto molto anacquato, allungato, perché è una cosa terrificante quello. Dice che basta un cucchiaino di quel prodotto buttato a terra che crepano le persone in un raggio di 30 metri. È una cosa terrificante quella. È il nervino più potente. Il sarin in confronto è... Il sarin è come se fosse cazzo d'acqua per sciacquarsi i piedi. Ma il VX è il più potente, il più terrificante che ci sia. Poi dice che i russi hanno fatto un nuovo nervino binario, si chiama Novichok, e dice che è ancora più potente del VX. Figurati, come studiano sempre roba più potente per ammazzarci. Maria, se non ti preoccupare, mancano i puri, siccome tu te la togli, crepi lo stesso, sei in quarto evitare, sempre con la maschera di distanza. Se c'è il gas del vino in giro, o non te la scappi manco tu con la maschera, te la scappi in quel momento lì perché c'è la maschera addosso, come la togli, crepi. In certi casi la maschera la devi tenere anche 12 ore, anche un giorno intero, metti. Però ci sono dei nervini che dice si attaccano al terreno e durano anche un giorno. Se c'è freddo durano anche 3 giorni, anche di più. Ehi, ma infatti quello di solito, sai, si comincia a sentire gente che urla in strada e tu sei dentro casa, forse fai in tempo a salvarti. Ti dico forse, ma meglio averla. Che poi è più un feticcio, mi capito, avere questa. C'è gente che le colleziona, non per usarle, solo per la collezione. C'ha tutte le maschere del mondo, cinesi, coreane, canadese, molto bella la canadese. La Forceda, guarda, le più belle sono la canadese Forceda. La tedesca, non mi ricordo come si chiama, poi c'è quella inglese, il GSR inglese, guarda, io sto diventando appassionato un po' come, cioè sono belle anche come oggetti. Poi cosa c'era bella? Ah, la Scott finlandese, molto molto bella come maschera. Poi sono maschere anche di ultima generazione, non sono maschere dell'anno 3, quelle sono tutte maschere moderne fatte nuove, quindi tutte in gomma butilica che resiste proprio al liquido diretto gas nel vino, che hanno anche il sistema per bere, una specie di sistema circuito quasi chiuso per bere, no? Cioè c'è una specie di cannula, tu la unisci a circuito chiuso con la borraccia e riesci a bere anche con la maschera, capito? Se no devi stare un giorno senza bere, già ti voglio vedere, muori di sete praticamente. Che ne sono, Marco? Già, non lo vedo. Qua c'è l'orologio, ma mi devo attaccare gli occhi per vederlo. Potrebbero essere le 8:20, può essere? Sì. Adesso ho guardato la figlia. Eccola qua. E alle 8 l'ho scelto. E qui c'è venuto a farci fare le coccole. Praticamente io ho stato accarezzato sotto il vento e mi leccavo il braccio. Come in contemporanea. È bello come cane, dai. Mi ricordo quella volta che stavo facendo il cucciolone lì, che faceva, insomma, si stiracchiava così a pancia all'aria, insomma, già è bravo, non è di quei cani alienati, cattivi, mamma mia. E poi molto dipende dal padrone, perché se tu lo incattivisci anche quello diventa un cane cattivo. Però sono stati bene, insomma. Eppure dice che certe razze tipo pitbull sono quasi geneticamente più aggressivi. Poi se lo tratti come un cucciolone diventa un cucciolone, però se lo incattivisci è molto peggio in certe razze, tipo pitbull e l'altro Rottweiler sono più stravaganti come cani, capito? Bisogna addolcirne un po' quelli. Marco, sai, non è come dici tu, cioè è bravo, però si gira molto anche quello del cane. Perché la stessa mattina c'era questo che aveva un cane, che è abbastanza alto anche, che sembra un pastore polonese, bianco. E mi ha chiesto se era maschio, sai, ho detto sì, è maschio, non lo avvicini perché si bisticciano. Giocherellone, già è bravo, non è lo stesso, ma il mio non lo so come, perché sta tenendo l'acqua da dritta, quando c'è l'acqua da dritta che non scurisce la testa della finita. Beh, questo qui ha preso, ha fatto la cazzata di avvicinarlo, se non ha preso gli sono cazzato, se non lo tiro io dietro lo sbizzaglio, poi ha preso, ha girato attorno e ci ha legato tutti e due con l'bizzaglio, poi dopo cadevamo tutti e due in terra, cazzo guarda, un casino stava girando, l'ho detto, era un po' detto io. No, ma dico, con le persone, con gli ospiti, anche quando ci sono io, mi lecca la mano. Invece certi cani, certi pitbull si girano con i padroni, o si girano con i bambini che li mordono, o si girano con i padroni, sono stati cani qui, padroni mezzi sbranati dal proprio cane, capito? Caso strano quasi sempre, o pitbull o rottweiler, più i pitbull però. Sono rientrato, non era a temere il pitbull. Come già, va Claudio? Che praticamente c'ha un anno e mezzo e ci gioca, addirittura si abbraccia, non gioca, non fa, però il pitbull è un po' strano. Allora, questo che c'ha il pitbull, da quando era piccolo potrebbe giocare, e se giocano sempre sotto i due maschi, però oltre a fare questo pitbull c'ha un pincher, che è questo pincher lo rompe in ballo ogni volta che vede a peso la paglia. E l'altro giorno, cioè il mese scorso, l'ho trovato e ci aveva una cinghia per tenere questo pitbull, e non è perché c'era la cinghia, è perché mi ha strappato il puntato, ma l'ha rotto, non c'avevo un puntato, allora aspetta che vado a casa e prendo uno. E lui ci aveva sempre il cane, quello piccolo e quello grande. Salvo a casa, ha preso il puntato, minchino per mettere il puntato al figlio. Cosa ha fatto quello piccolino, grande? Righiata e ho detto, e vanno a cercare la zampa, sai che non ci ha visto più, la fine si fa un nudo. Come ha fatto così, il pitbull, siccome vivo insieme, ha aggredito a Tyson, capito? Ha capito, si sono dato quel pitbull, però grazie a Dio non si sono attaccati tutti. Non è fa una cosa, ha fatto un giro adesso, poi ci facciamo rivedere, se non si vogliono. Ha preso, gli ha fatto fare un giro, poi ci siamo ritrovati, io ci sono abbracciati come si passò. Mi sono messi su due zampe, ci sono tutti e due abbracciati, e il cane quello piccolo, ma si è andato da una parte e non veniva più, capito? Sì, pure Filippo così, c'è giù. Filippo sta diventando cattivo come il padrone. È inavvicinabile, no? C'è Cristo. È inavvicinabile, lascia verde. E vabbè, i cani cattivi però si portano un problema, non credere che sia un quarto che sia cattivo. Si portano problemi, perché se mossicano qualcuno, mossicano persone, mossicano cani, poi si denunciano, sono prechiamati. Già, non è cattivo, non è un cane a fare errori, è un cane che si fa rispettare. I cani maschi li può vedere poco, no, non è socievole con tutti, con chi vuole lui, quindi ho già di buccio qua. Purtroppo è così, quando era più piccolo era molto più tranquillo e sereno, adesso che è grande, è un cane di 4 anni, non è 3 anni e mezzo. Quindi, no, purtroppo, ti ripeto, l'altro giorno si è visto con un pastore tedesco e si fa una male forte. E va bene, l'altra volta questo pitbull lo stesso, Badia e Visagosa, come fa di Filippo incazzato, a Giumai è diventato una iatta grazie a Denata all'Aido. E un cane che si fa rispettare, quello che ti faccio. D'altronde, anche quando me la... quando è arrivato il proprietario del canile dove io l'ho comprato, mi ha detto che era un cane molto, molto sedentario, molto tranquillo, che però si faceva rispettare anche da piccolino, e quindi io l'ho tenuto abbastanza tranquillo e sereno, però ti ripeto, è un po' di tempo che non è più quello di prima, e quindi abbiamo già usato le precauzioni, quando lo porta mia moglie c'è la musarola, quando lo porto io l'aria no, perché abbiamo un altro tipo di... purtroppo è così, se vuoi ti faccio, non è che l'ho addestrato io a essere cattivo, è così, più grande è diventato e più modello è diventato, però è abbastanza rispettoso con tutti, non è che aggredisce la gente così, e ti vedi, ti rendi un troll, ti vede tirando una cosa, ti abbaia, ma non è che ti salta sopra, capito, un po', le danno fastidio un po' di cosette, però grazie a Dio problemi non c'è, però con i cani del quartiere un cane molto si fa rispettare abbastanza, non è che ha paura che sia quello o quell'altro. L'altro giorno l'ho vista brutta, perché tra l'altro ci conosciamo, questo signore, una persona grande, però l'ho ripreso perché non è modo di portare un pastore tedesco a passeggio con un guinzaglio mollato così a 3 metri. Io sono uscito dal cancello e se l'ha trovato davanti. Meno male, il mio è rigido il guinzaglio, quindi l'ho tirato e me l'ho portato avanti. Se era libero si sarebbero attaccati, capito? Si sarebbero fatti male. Più il pastore tedesco, penso, sarebbe fatto male. Penso proprio di sì. Penso proprio di sì, tranquillo, penso proprio di sì. È tosto il mio cane, ma non perché io l'ho vantato, detto, ma non frega assolutamente niente, però un cane che ti fa la bubua, ma molto ti fa la bubua. Ma mentre tu hai paura, va, non stai scherzando. Lascia per... Comunque, a prescindere da questo, i cani non vanno mai portati a questi risvegli. Purtroppo, se il cane non si fa più avvicinare come prima, io ho preso le prescrizioni. A chi conosce quello del mio palazzo, assolutamente, io scendo in ascensore senza guinzaglio, a volte c'è gente giù aspettando, si butta sopra, ti si lecca, tutti, chi conosce, ma chi non conosce non è più come prima, e cosa ci posso fare io? Quindi è un pericolo anche venire a trovarti, così è. No, guarda, c'è Massimiliano, fa beffa, ma anche l'altro giorno è venuta gente anche d'aria, no, se tu entri nel tuo piatto, lui quando suona il campanello lui esce per vedere chi è, se poi vede chiaro io ti faccio entrare che dice questi si conoscono, quindi cosa devo, però sì, chiaro, se ti vede in difficoltà non penso che entri nel tuo piatto, assolutamente, perché adesso anche quelli delle scale, prima non li abbaiava mentre puliscono le scale, adesso lui sta nella porta e li abbaia quando sono nel pianerottolo, cosa che prima non faceva, capito? Quindi tante piccolezze che messe assieme risultano magari sì, possono essere un pericolo, però dentro casa mia tu non ci devi entrare, se ti apro la porta io entri, se no non c'entri, sicuro che non c'entri. Marco, io ho adatto quel sistema, ripeto, basta che alla persona la carezza tu capisci che è un amico, capito? Ti dico, stai da qua, tutto il carezza, tu ci si diventa il tuo amico della persona che è, capito Marco come gli ha giocato con tutto qua? Claudio, secondo me sono tutti cani che praticamente vanno a bene, come noi persone, no? C'è quella che c'è simpatica e quella che no. Anche in Italia è così, quando ci sono certi maschi, l'altro giorno c'è un maschio che scodintolava, non lo conosceva e poi hanno giocato. E all'inizio era un po' titubante, ne ha fatto quasi la cosa di attacco, si è seduto, poi si è messo un po' le zampe puntate, come fa la tigre quando deve praticamente assalire la preda, la stessa cosa. Camminava per il fatto, piano piano, sembrava respirare e poi si è avvicinato, era un po' tentennante, con la coda un po' dritta, il pelo dritto, poi si è avvicinato, quando ha visto che era giocherello, mi si è messo a giocare anch'io. Però secondo i cani non li fa manco avvicinare. Stamattina stavo raccontando a Marco e questo qua praticamente si è avvicinato, c'è un cane tipo 4,5 metri, quindi bianco, tutto ricciuto. È bello anche grande. E mi ha detto, ma è bravo, ha detto sì, è bravo, però non si sa mai con i maschi, se il maschio non lo avvicini perché se no si attiva. No, lui è bravissimo, no? Non si preoccupate, vabbè, ma bisogna vedere come l'ha pensato, perché ha la coda dritta e quello dritto, si attenta a non avvicinarlo, no? Non capisci più della vita. Se lo tiro io, la gente fa tirare, non gli stava saltando addosso. Poi ci ha legato col guinzaglio, ci tirava l'attorno tutti e due, no? Ho preso che si diceva quello e ci hanno girato attorno, cazzo, ci ho messo la testa tutti e due. Sì, già, ma hai pienamente ragione, infatti a pelle il cane è così, non è né carne né pesce, ti giuro che Filippo è seguito abbastanza, che segue sempre questa scuola di addestramento, una volta, due volte al mese, però ti ripeto, non lo so perché neanche il veterinario se lo spiega, però adesso bisogna stare un po' più attenti. Prima era molto socievole con tutti, ora è diventato un vicino con questo bambino. Allora io però la stessa non ancora, ma lo conosco. Quando tu tiene la coda dritta e non la scodintola, la coda vuol dire che si è di attacco. Poi gli si addensa piano piano anche il pelo, sul dorso, e via da temere. Quando è così è da temere, perché sai, sempre di ringhia e cerca di saltare addosso alla mia. Quando fa così, poi ci sono dei cani occupati, piccolini che lo abbaiano, lo fanno, lui non li caga nemmeno, dico la verità, passa dritto, non si scompone nemmeno. Lo so, però io conosco il mio, tu conosci il tuo. Ripeto, non so cosa può succedere, quindi io cerco di evitare, appunto, per non creare problemi né a me né agli altri. Fallo combattere. Te le immagini? Io faccio la stessa cosa. Ah, se vedo cane mi allontano, a meno che sia una femmina, allora lo avvicino, cerca sempre di farsi, perché c'è questa tattica, le fai giocare prima, come le fai giocare, poi subito va di saltare addosso, scatta la prigione, non riuscivamo a attaccare le zampe, si è avvicinato, cazzo, sbaglia un po'. Allora riuscivo, due colpi ti daranno. Non sono riuscito, cazzo, non riuscivo a mettere attaccato, lo sai. Vabbè, vedi tu. E lasci che proprio in cara, proprio. Ogni cagna che trova, cerca di farcela, fa per giocare, quando vede che ti sei sgattata, no? Torniamo a quella frase che diceva un amico, donna che ride, puntata ai calati. Uscire. Diceva così questa. No, la gatta è buttata in carattere, nel senso che quando vedi che la donna vede vuol dire che ci sta. Anche se non è così, perché tante amiche simpatiche scherzano con tutti, vedono con tutti, ma sono serissime. Sono qua, Quindi a Marco, ripetetela che io vado già a portare in taglia, perché Claudio l'ha portata, la cena tutti e io devo ancora portare. Il problema è dove? Secondo me oggi è meglio portarlo nel cortile di casa, così almeno sono sicuro che non c'è nulla. Fatevi il Fight Club dei cani. No, non devo fare, sai cosa, è una roba, e quando ci apriamo pure di queste cose, quindi non è bella giusta. Eia, te ne immagini? Lo fai azzannare dal cane. No? Un attimino è arrivata mamma che chiede una cosa. Il cane del quartiere, perché c'è uno ce l'ha portato via, Claudio, l'ha fregato, ce l'ha mangiato. Uno? Un cane, sentito male, l'ha fregato. Stava sbavando e così, l'ha portato via, ma l'ha preso la stessa cane in casa. Che giudizio già, ho detto il cane è così, no? Guarda, io ho 5 minuti, l'ho portato al boschetto, non c'era nessun cartello, niente, una settimana prima l'ho tutto pulito, quelli del coso lì, del verde urbano, e niente, io ho smitagliato a Filippo dentro, come facevo sempre, se ne stavano più, e mi ha acceso una sigaretta dello fu. E il cane è sceso, giocava, girava, faceva, lo vedevo sempre però. Poi per una frazione di secondo non l'ho visto, era in mezzo a dei cespuglietti bassi. E niente, l'ho chiamato, subito è venuto a correre. La sera era tranquillo, diciamo, sì, un po' più moscio del solito. Di domani mattina io sono andato al lavoro, ho portato mia moglie, mi ha telefonato urlando che il cane proprio stava facendo una pipì rossa, sangue, immediatamente ha chiamato l'aria, è rientrato al lavoro, ha portato al veterinario, in clinica veterinaria, subito, immediatamente ha portato il soccorso veterinario, ha fatto una flebo, immediatamente, subito non mi ricordo cosa gli hanno dato, gli hanno bloccato questa emorragia. Se non interveniamo in tempo perdo il cane, in una mattinata proprio era crepato. Vitamina K. Esatto. Sì. Lui ha mangiato proprio il veleno per topi, che fa venire emorragie, capito? E dice che impedisce la coagulazione, quindi il cane ha emorragie esterne e interne. Invece quando l'antidoto è la vitamina K, capito? Che fa di nuovo coagulare il sangue, però caspita, se l'è vista brutta, Marco, morto dal cane, morto, mi è venuto due volte, a casa mi è venuto due volte, io pensavo che era morto, per me era già morto, questo dice febbre altissima. malissimo, poverino, va. È stato 3-4 giorni così. In continuazione, ma la dottora Fossi ci ha lavorato giorno e notte, poverino, giorno e notte, giorno e notte. Era sempre a casa perché non voleva manco a spostarlo. Veniva lui qua, molto amico di mio genero, molto, molto, molto, moltissimo. E quindi nulla, manco in ambulatorio andava, ad esempio in Oghi, c'era tutto appresso, trasfusioni, affrevo, punture, fino a quando il cane ha proprio bloccato l'emorragia e ancora oggi, ogni 3 giorni, praticamente una volta alla settimana, prende il cortisone, capito? Prende il cortisone, perché lo deve prendere, non c'è niente da fare. Quindi è andata bene, perciò che già ne sto dicendo, occhi aperti, segui bene il cane, non lo smittagliare, perché io purtroppo non sapevo niente, però il cane è cane, e quando fiuta e c'è qualcosa da masticare, anche se Filippo non tocca niente da terra, però evidentemente quel bocconcino era invitante, quindi se l'ha ciullato. Oh, yeah. No, vedi, avere questo tante volte, perché siamo una comunità, quelli dei cani, siamo tutta una comunità, ci conosciamo, cosa, ci avvisiamo, e c'è quell'altra volta per dire, abbiamo trovato questo cane che si vedeva che era un cane di casa, stava con noi, tutto qua, con il cioletto, però non ha fatto il padrone. L'abbiamo tenuto, lo abbiamo tenuto utile, eccetera, dove c'era la città ancora non ne ho presa. Questa ragazza, poverina, è stata fino alle 2 lì, cercando, facendo cose, alla fine non, uno ha detto che conosceva il padrone, e ha bisogno per abbandonare due, ma secondo me non gli è scappato, lui ha detto che gli era scappato da casa, ma secondo me l'ha abbandonato. Non ci aveva né pizzare né collare né nulla, questo cane era affettuosissimo, faceva le feste a tutti, si vedeva che era un cane che viveva in casa. Ma se io dovessi scoprire qualcuno che sta mettendo esche avvelenate, no? Per cani, gatti, chi devo chiamare? Guarda zoofile, chi devo chiamare prima? Non ho numeri di telefono, non ho niente. C'ho solo il numero dei vigili urbani per emergenze, ma non sarebbe meglio la zoofila, cioè devo avere un numero di telefono, appena mi funziona di nuovo la linea Wind, me lo comunicate e me lo metto in rubrica. Ah, Ivan chiama, interviene lui col bazooka. Guarda, zoofile Sasha, gli si dice, lo sai, lo anch'io, non è, ma ci vuole poco. No, ma metti che sei fuori, no? È il tipo, che ne so, rischia di scappare in macchina, no? Che ne so? Cioè che intervengano, che c'è Ivan col bazooka? Lui l'avrebbe fatto. Però ormai è storia antica, ho cancellato anche il numero dal telefono, Ma non da adesso, da quel lì. Sì, guarda zoofile, ma anche baracelli vanno bene, insomma, in genere. Però mi sa che le guardie zoofile per quelle cose hanno il dentino ancora più avvelenato, capito? Marco, sono caduto, ti ho segnalato un tipo che ha mandato due sicari in zona, di un tipo così grosso. E mi ha detto di chiamare i carabinieri, che loro non ci prendono, però sono tipi così grossi che non ci prendono, capito? Chiamare i carabinieri, se fa queste cose qua. Vai Claudio. Vai. No, no, appunto, vabbè, gira, meglio il 112, almeno è breve da fare, capito, è anche gratis. Vai Claudio. Beh, certo, noi qua perché al giardinetto abbiamo chiamato i carabinieri, tutti i carabinieri, i vigili urbani, hanno fatto le foto, 6 cani, 6 gatti hanno ammazzato, 6 gatti, ma belli, 6 gatti. Avevano un marciapiede fuori del recinto del giardinetto e 3 erano dentro, capito? Proprio fotografati, uscito dalla Nuova Sardegna, ce l'avete letto, e abbiamo fatto la denuncia a tutto il quartiere contro i gnotti, capito? Poi sono venuti i carabinieri e i vigili urbani, cos'è, guardi tutti, i carabinieri proprio, qualche sospetto ce l'abbiamo ancora oggi, però purtroppo se non lo trovi col malloppo in mano, cosa le fai? Rischi di prendere una denuncia per calunnia, è ancora peggio, capito? Quindi la ragione c'è, 113, oppure carabinieri, e vedi che ripassiamo a chi? Questa gente vuole fucilata veramente, chi non ama gli animali non ama se stesso. Eia, i cacciatori, invece hanno una specie di rapporto perverso, cioè hanno magari i loro cani, li vogliono bene, li tornano anche comodo per la caccia, però poi sparano ad altri animali, no? Che sia cinghiale, sia uccelli, poi chi che riesce va a cervi in Alta Italia o dove è permesso, no? Cioè, da una parte li ami, da una parte li ammazzi gli animali. Non capisco il senso, infatti a me non piace, non piacerebbe cacciare, essere cacciatore. Il cacciatore non li tratta manco bene gli animali, perché gli dà poco da mangiare per lasciarli magri, li fa lavorare a caccia, li fa lavorare come schiavi, li fa correre, li fa andare. Questi cani sono scheletri, che se tu vedi quei setter, quei pointer che vanno a caccia, sono scheletri, si vedono le ossa, li trattano malissimo, gli danno roba da mangiare così, ogni tanto, un pasto al giorno per non ingrassare. Oh, boh. Che una volta una zoofila, vabbè non vi spiego tutto la cosa, dice io amo gli animali, io sono cacciatore, c'ho il cane, anch'io c'ho il cane, lo tratto bene, ma non so chi gli aveva detto, che senso ha, ma amare gli animali e poi li vai, li spari e li ammazzi gli animali, cioè. Boh. E vabbè, i cacciatori poi sono tutti così. No, non lo sono. Mi stanno sulle palle i cacciatori, in poche parole. E la buona anima della mamma di Antonio, che se c'è l'olizio del cane che ti ho regalato io, il pastore Pelle è un cacciatore, si rumagna. Perché sai cosa faceva la mamma di Antonio? Faceva che qua era l'usante. Si metteva con la bombola per farli scappare gli uccidi, perché entravano nell'olivetto, c'erano le reti, no? Cazzo, schiacciavano tutte le olive per prendere gli uccidi feriti che cadevano, no? Schiacciavano tutte le olive, non guardavano nulla, schiacciavano le olive, sfasciavano muriti, allora si metteva con la bombola, don, le faceva scappare. Questo cacciatore ne ha buttato il fucile perché gli ha detto che era proprietà privata di andare fuori. E c'erano le reti, non poteva stare. Gli ha buttato il fucile, cazzo, il cane vede una cosa del genere, salta addosso, cazzo, tanto che non se lo sbrana. E gli ha regalato un pastore bello a Antonio, che mi avevano regalato a me, no? Questo qui era una persona che aveva perso il lavoro, lo poteva più tenere e praticamente me l'aveva già grandetto, però si era affettato un bel campo. E addirittura aveva anche allattato dei gatti che erano rimasti senza la mamma e li aveva allattati perché era femmina. Secondo voi gli uccellini come sono? Vabbè, gli uccellini in gabbia anche sono brutti da vedere, ma chi li ha mai avuti gli uccellini in gabbia? Tipo coccolite, quelli gialli, come si chiamano? Canarini? Sì, io avevo un allevamento di canarini e anche dei coccolite. Ma dei canarini ho avuto proprio l'allevamento, li allevavo, li vendevo, li regalavo. Ce li avevo arancioni, gialli, verdi e gialli. Quello verde giallo cantava da Dio, c'era un canto allucinante. E c'è Dio, riconoscevo quella canzone. L'uccellino nella gabbietta, tra tre giorni non cinguetta. Cosa vuole l'uccellino? Secondo me è il biscottino. Io mi ricordavo, l'uselin della comare, e proprio lì voleva volare l'uselin della comare, capito che tipo di uccellino era? Voleva volare lì dove c'è il nido dell'uccellino. Uccellino che volò sul ginocchio, l'uccellino non era più. Me canzone. No, io no, assolutamente. Io quando ero a casa di mamma, non so se te lo ricordi Gianni, in piazza, proprio di fronte alla farmacia, allora la prima farmacia di San Maria Murtas, dottoressa Murtas, ci abitava mio zio, il rabbino Urlo, che c'aveva un merlo indiano, ma cosa pazzia di casino, dietro bisogno, allucinante, si sentiva a casa di mamma, quindi all'angolo di via Cavour, ma fischi che non dava, e a tutti prendeva in giro. Claudio, io qui mi viaggiavo qui in treno, viaggiavo, e mettevo la macchina, perché la stazione avevano rubato tutti i cristalli, non la metto più alla stazione, la metto via di Sicilia, me ne faccio un pezzo a piedi, e facevo così, da parcheggiare via di Sicilia, arrivo, la metto, c'è un telecomando, allora c'è un allarme, poi c'è, uiu, e chiudeva. Cazzo, prima di prendere il telecomando, io ho detto, uiu, sono l'ho premuto, guarda la macchina era aperta, richiudo, rimetto il telecomando e c'è di nuovo, dopo che l'ho chiuso c'è di nuovo, uguale lì. Cazzo, poi c'è questa signora che dice, è questo delinquente che la sta prendendo in giro. Sì, me lo indiano, è favoloso, favoloso, ma mio zio, il rabbino l'aveva praticamente portato, era all'estero, aveva lavorato all'estero, se l'aveva portato, ma in piazza, io non so se ti ricordi, proprio di fronte alla farmacia di Murtas, diciamo via di Murtas, ben Murtas, lì, quel palazzo che c'è, il rabbino abitava al quarto piano ed era sempre a botti, sempre, a tutti, faceva qualsiasi cosa, se lo facendo il gatto, sembrava un gatto vero, guarda, è una cosa allucinante, infatti quando poi a me piaceva tantissimo, le avevo chiesto di rabbino se non lo dava, mia madre non voleva perché dice che sporcava, le faceva, e noi non c'eravamo mai a casa e quindi toccava pulire lì eccetera, non me l'ha mai fatto prendere, però mi è sempre piaciuto, ma il rendiano era favoloso, che costa rispetto a un pappagallo vero, questo costa zero, perché i pappagalli indiani costano una barca di soldi, ma 3,50 costa, ma vediamo piccolo, imparare ancora a parlare. Hai figura di 350 euro. Ma l'indiano ma fa molto casino anche, fischia, fa casino. Pappagallo magari più discreto, a insegnargli a dire le parolacce, quando entra qualcuno in casa, quello stronzo, stronzo. È presente a casa, poi abitava il fratello di Fiori del vigile, quella in via delle vigne, di quale entrata che c'è. Lì c'era uno che mi invitava lo sportello di furgone che ci dolava, che è allucinato. Una volta e poi mi diceva, chi è postino? Ma lascia perdere, sono poi ripetono tutto, perché a me me lo raccontava mia zia, una figura che ho fatto, diceva mamma mia, ma una figura te lo sentisci, ora mi fa i denti di una e chi e a Maria, no, la moglie, mi dice sì, dove cate zoccola, mi sa, ma la sapellina. Oh, lui ce l'ha memorizzato, tutti quelli che entravano diceva zoccola, zoccola. Cazzo, allora. Guarda, neanche quello, anche il pappagallo, quello cinerino, non so se vi conoscete voi che parla. C'era una mia collega, diceva, quando c'era gente a cena, a pranzo, siccome il marito diceva, poni a me. E lui diceva sempre, poni a me, poni a me. È allucinato. No, per questa volta che devo portare giù un taglio, vi saluto e vi auguro un po' fino a questo, dai, un taglio, e così siamo. Ciao, ciao. Aspetta Gianni, prima di chiudere, quanto può costare per esempio una coppia di canarini o di cocorite, lo sai? Guarda, una coppia di canarini, io penso che li vendano 25 euro l'uno i canarini, forse il maschio costa sulle 30 invece che 25, la femmina costa meno. La cocorita di cocorite adesso costa un poco, non costa tantissimo, comunque se tu guardi su internet c'è sempre su subito e cosa, vendo pappagalli, vendo canarini, io per dire avevo comprato i criceti da questo tipo che c'aveva un allevamento di criceti dentro una tambulana, c'era praticamente della paglia, era pieno tempo di criceti, cazzo come dice all'epoca, mamma mia. C'aveva uno sportellino per prenderli, cazzo c'aveva fatto, questa tambulana grande, e loro giravano tutti attorno, non ci vedevano nulla, solo da sopra vedevano, basta, non era trasparente. Poi c'era anche un'altra casa che gli avevano fatto tutto quanto in vetro invece, gli avevano fatto tutto la, tipo un acquario, lui tutto in vetro con la paglia e loro stavano bene. Sì, sì, crescenti provati. Più stupido il pesce, almeno il pesce rosso, perché no? Boh, pesce rosso, vabbè, costa poco ma non ti dà niente. Le cocorite sono carine, cocoriti belli colorati, però caspita, a 30 euro non c'è già un canarino. Faccio prima a mettere il vischio sul terrazzo, buscarmi due perdoni e mettermi in gabbia. Guarda, se vuoi un consiglio ti portare degli animali, poi ti leccavi per un piano, quelli lo vincite, sono bellissimi qua. Sono delle belle creature, perché sono dolci, li puoi prendere in mano, li accarezzi, li puoi fare il bagno, tutto qua. A me me l'aveva fatto dare mia moglie via, gli avevano fatto anche i figli, più pesce che i figli sono nati già col pelo e mangiavano già la terra appena. Oltre che a mangiare la madre mangiavano la lattuga, tutta la roba che gli mettevano. Dal primo giorno io mi sono spaventato, ci siamo amici questi qua. E non mi ero accorto manco che li avevano fatti loro, capito? Che erano incinta nei miei. L'avevo un po' grassottella la femmina, ma non ci pensavo. E lo stesso io. Quando la cricetta è rimasta incinta, io prima non mi sono accorto di niente. A un certo punto vedo questi esseri piccoli, mezzi trasparenti, senza occhi, senza peli. Guarda, sembravano delle punte di mignolo. Poi non so perché sono diminuiti, mi pare che se li sia mangiati alcuni, perché dice se in cattività si accorge che non può camparli tutti, alcuni li uccide, una cosa del genere. Sporche bestie, come la madre, come se una donna si mangiasse il proprio bambino, mamma mia, che bestie. Vabbè, comunque, caspita, costano gli uccelli, no, non ne compro più, ne compro un cicalino che suona, è lo stesso. Ma gli uccelli in casa mi fa compagnia, tu pensi che io me lo devo portare a casa, il canarino, a casa quando mi sono sposato, mamma mi ha telefonato, mi ha detto, ti devo dire una cosa, mi manca il canto, mi manchi tu e mi manca il canto degli uccelli, perché mi facevano compagnia mentre facevo le pulizie, io accendevo la radio, loro come sentivano tu, si cazzo cominciavano a cantare. Poi io ne avevo diverse, cioè ne avevo fatte svariate cose, poi ne avevo incrociato uno con un verdellino e un altro con un verdone, e poi sentire il canto che faceva. Facevo anche gli incroci, capito? C'avevo un po' di gabbie, avevo le gabbie grandi anche, le appendevo fuori, c'avevo le rampini e le mettevo fuori, poi la notte e la sera le toglievo. Stavo tutta la notte, tutto il giorno stato all'aperto a cantare, si posavano gli altri uccellini per mangiarsi il mangime, si fregavano il mangime dalla gabbia. E gli altri uccellini, quelli selvati, ci andavano a mangiarsi il mangime anche in passi. Ascolta, il periodo della viaria, scommetto che nessuno ne comprava più uccelli. Ma non lo so, io quando li ho avuti io non c'era nessuna malattia. Praticamente li ho fatti aspettati, che adesso li ho tutti, no. Sette e 20, insomma, può essere. Ciao, me ne sto andando, scusate, troppo tardi, dai. Ciao, ragazzi. Ciao Gianni, dai, buona passeggiata. Ciao, sì, sono le 8:20. No, vabbè, io ho abituato a uscire prima, che fermo, finita, sempre in via dei Bezza, sì. La viaria, è un anno che non vedo la viaria, Marco. Eia, sarà stato anche quel periodo, ogni tanto si fa il giro di ruota, no? E la lingua blu per le pecore. E per i maiali cosa c'era stato? La peste suina, cosa era? Poi per gli uccelli l'aviare, insomma, a rotazione, per gli uomini ci sono le varie influenze, più o meno pericolose. Ui ui, vabbè, certo, 30 euro un canarino, 60 euro due mesi di uccelli, ce l'ho detto, metto un bastoncino col vischio sul terrazzo. Ti ritrovano i perdoni, mi mamma mia, in gabbia, cazzo, mettono a te in gabbia, a me in gabbia, cioè nel senso in mamme. Ma esiste ancora il bischio? Una volta esisteva, lo vendevano la Pasquale, no, i ragazzacci se lo compravano per pigliare i pisci, per pigliare uccelli. E i parigioni che burro trattano il bischio, capito? Filippo, cosa ti hanno? No, mamma mia, ci sta abituando a stare qua sotto, sotto il tavolo. Cosa c'è? Cosa c'è? Fai la brava. Su, te lo asciuga. E il rischio ho già per andare lì, metterlo nei rami, al fiume, prendere i cartellini, capito? E ci riprendevano. Ah, così, è così. Però guai se si attaccano le ali, guai. Li trovi morti, secondo me, perché, mamma mia, non glielo togli più il pistole alle ali, E mi ricordo da Pasquale, se qualcuno andava a comprare, c'era il solito signorotto, no, che si metteva in mezzo. Ehi, ma cosa te ne fai? Guarda, non si possono prendere gli uccelli. Cioè all'epoca c'erano questi signori, no? Che non si facevano i mazzi loro e dovevano dire la loro, capito? Adesso no, adesso temono pure a dire roba agli adolescenti, se non buscano. Me lo ricordo, c'era da bambino, ragazzino, facevi qualcosa, c'era sempre il signore, si metteva in mezzo. Adesso sono cambiati i tempi. Il visco dei topi, sì, me lo ricordo, il visco dei topi, dovrebbe essere più forte, lo metti sulle tavolette e rimane invischiato il topo, capito? Lo catturi vivo, poi ne puoi fare quello che vuoi, lo affoghi nell'acqua bollente, gli puoi fare tutte le angherie che vuoi, capito? Anche perché se è vivo poi sei costretto anche a uccidere il topo, capito? Se lo catturi vivo. Che schifo, lascia perdere. Non ho mai catturato un topo, non ho mai ucciso un topo io. Mi fanno schifo proprio. Assolutamente, una cosa schifosa che non mi piace manco vedere, guarda. Proprio mi fa schifo. Ero di muculo, perché io con quello che faccio ne ho visto, ma grandi che messi anche seduti, a tipo canguro, capito? A volte prendo tombini, prendo canalette, soprattutto perché stanno molto nelle canalette, e ti fanno paura di quanto sono grandi, quindi a me fanno schifo, assolutamente, troppo proprio, proprio via. Lo so, troppo. Addirittura nel giardino qua a fianco c'era una specie di tettoia col tetto spaccato, non uscivano da lì. Lo sai che eravamo una notte, ci siamo messi col vicino con la pila, ammazzandoli con la carabina aria compressa. Almeno tre o quattro ne avevamo beccati, li ha trovati morti il giorno dopo, no? Con la testa bucata, pure col corpo bucato. Ma ce n'era, mi andavano anche da questo di sotto, mi passavano sulla tettoia, tu guardavi, tu pigliavi la telecamera, no? Perché tu non vedevi nulla, a occhio nudo, era buio, no? Pigliavi la telecamera, no? La mia agli infrarossi, mettevi gli infrarossi, quindi vedevi nel buio, e vedevi tutti questi punti luminosi appaiati, erano gli occhi dei topi, e io, cazzo, mi veniva la pelle d'oca, lo sai? Poi per fortuna hanno fatto i lavori, hanno chiuso tutto, hanno proprio ristrutturato, per non dire ricostruito questa soffitta, questa struttura, non l'hanno catramata, adesso tutti non viene più. Ma poi la paura che entrassero in casa, perché poi se entrano non li mandi più via. Non avevamo gatti nemmeno all'epoca che potevano cacciare i topi, anche se a seconda di quanto è grande il topo il gatto se ne fugge. Posso solo immaginare quanto li vedi grandi tu in quei posti dove c'è l'acqua lì, mamma mia, per carità, le pantegane proprio. Marco, topi di Fonia sono quelli, non sono topi di campagna, quindi immaginate tu ci abbiamo altri di giorni. È vero pochi, ma quando è vero ci sono, ci sono grandi, ma grandi, e soprattutto a noi mensilmente viene la nuova prima a disinfestare gli impianti. E la medicina noi la mettiamo ogni settimana, la cambiamo, la medicina per i topi, soprattutto nel canale, nei posti dove possono edificare, eccetera, nei quadri elettrici, capito? A volte trovi qualche uno di quelli piccolini, però a volte trovi anche quello grande, morto naturalmente. A me ultimamente mi hanno fatto saltare un sezionatore, è passato in mezzo alle due spine del sezionatore e ha fatto praticamente massa, è rimasto in chi attaccato. pulizia dei quadri, mi ha l'apporto, ho pulito il quadro, ho fatto tutto il quadro e ho riavviato l'impianto, che a volte fanno anche danno purtroppo, capito? Quelli grandi. Sì, sì, altro che rosicchiano cavi elettrici, sai, rivestimento in gomma o in PVC, fanno danno ai topi, per carità. Invece, vabbè, quelli in campagna sono piccolini, sono carini. Però, guarda, io pochi animali potrei uccidere, ma quelli di fogna sì, come quelli della carabina. Ci vuole mano ferma, però, me ne sono reso conto. Invece su YouTube c'è un americano, no? Quello che fanno loro si chiama pest control, cioè controllo degli animali infestanti, anche con gli scoiattoli purtroppo lo fanno, perché lo scoiattolo stesso è un rompicoglioni. Quando c'è quelle case americane di campagna, no, ti fanno i buchi sotto nel sottotetto, me li danno, fanno. E questo c'è una carabina PCP, PSP, non so cosa è, che c'è un tubo sotto la canna dove c'è tutto il gas, ma il gas ad alta pressione, c'è un cannocchiale. Ed ha una mano anche da chirurgo, devo dire, cioè i tubi a 50 metri, a 90 metri, devi vedere, li punta, c'è anche la fotocamera posizionata sull'obiettivo del cannocchiale, li punta, senti, ha beccato il topo, incredibile, c'è una precisione che le normali carabine di ANA 25, no, quella che ho io, no, non hanno, capito, non ce l'hanno, quello è proprio una cosa da professionista, una cosa incredibile, guarda, di marca tipo Walter, c'è roba proprio professionale, non è quella mia che fa ridere. Ogni tiro un colpo, ogni tiro cioè un centro, lo sai. E così eliminava le cose, anche uccelli infestanti, lo sai che tiro bene i raccolti. Cazzo, devi vedere da 90 metri, secco, vedi le piume volare, no? E l'uccello che cade a terra. Purtroppo anche gli scoiattoli, perché sono carini, quello che vuoi, però anche loro sono, portano malattie, lo sai, lo scoiattolo può portare cose molto, poi si infilano anche nelle, perché lì in America, in quelle case di campagna, hanno il vizio di fare i muri non sono pieni, hanno intercapedini vuote, lì ci passano topi, scoiattoli, fanno un bel casino, fanno il nido, fanno figli, diventano tutto di cacca, cioè lì devono per forza ucciderli, non c'è altro modo, capito? E cosa fanno? Uccidono i scoiattoli. Avanti Elio? No, chi era? Non lo so chi è. Chi è? Non ho capito. Sì, sì, in certe zone uccidono gli scoiattoli. Sono considerati in certe zone sempre americane, Nord America, come un animale infestante. Cioè che fa danno proprio, fa danno. Ma io ho visto anche sparare a lepri, conigli, lepri no, quelle selvatiche, però non per cacciarle per mangiare, proprio come forse ti rovinano l'orticello, non lo so cosa fanno. Insomma, io solo i topi ho sparato, perché proprio mi fanno ribreccio, come hai detto tu, via la pelle dopo, fa schifo, dopo di fogna. Dopo di campagna, no, è piccolino, qui ho avuto i cricetti, no, è come se fossero quasi dei topi, ma dopo di fogna è una cosa rivoltante proprio. C'è della roba diffusa, vediamo chi è che vuole entrare, o ho sbagliato canale, non so, avanti. Attenzione a mangiare, ma Valerio, lì, e beh, non ho capito, è da tanto che non ti sento, infatti ti volevo mandare un messaggio proprio oggi, avrei che fine avevi fatto, quindi un po' così, va bene, no, la modulazione è sempre la tua, però no, l'inquadramento era quello, vale, tutto a posto? Fatti sentire, vale, porca miseria, sei sempre lì, non tocchese, ma non ti fai mai sentire, no, beh, io guai chi tocca gli animali, perché come ho detto prima, se hai ascoltato, chi non ama gli animali non ama se stesso, quindi io sono molto amante degli animali, di qualsiasi tipo animale, però non mi come cercare un ratto a ratetta e a ratta pignala, perché quelle sono per me surighi. Vai Marco. Eia. Eia. Poi la foto di quello che c'ho io, però non è il classico pipistrello sardo brutto. Il mio nella foto di WhatsApp è un pipistrello volpe, mi pare. E sono noti per mangiare frutta, capito? Mangiano proprio frutta, non insetti, eh. Insetti li mangiano quei pipistrelli fei che sono tipo da noi, mi capito? Ciao Valerio, ben risentito anzi. Buona cena. Ciao, dai, non ci pensare. Io sono 15 giorni a casa, quindi figurati. E ancora ci dovrò rimanere, perciò.